Quando il regno fu consolidato ed egli divenne forte, Roboamo abbandonò la legge del Signore e con lui tutto Israele. Nell'anno quinto del re Roboamo, Sisac, re d'Egitto, marciò contro Gerusalemme perché erano diventati infedeli al Signore. Egli aveva con sé 1200 carri e 60.000 cavalieri. Non si poteva contare la moltitudine che era venuta con lui dall'Egitto, libici, succhei ed etiopi. Dopo aver occupato le città fortificate di Giuda, egli giunse fino a Gerusalemme. Allora il profeta Semaia si presentò a Roboamo e ai capi di Giuda, che si erano radunati a Gerusalemme per paura di Sisac, e disse loro: «Così parla il Signore. Voi avete abbandonato me, ed io ho abbandonato voi nelle mani di Sisac». Allora i capi di Israele e il re si umiliarono e dissero: «Giusto è il Signore». Quando il Signore vide che si erano umiliati, fu rivolta la parola del Signore a Semaia in questi termini: «Si sono umiliati, non li sterminerò, anzi, tra breve concederò loro salvezza e la mia ira non si riverserà su Gerusalemme per mezzo di Sisac. Tuttavia saranno a lui sottomessi e così faranno l'esperienza di che cosa sia servire a me e servire ai regni delle nazioni». Sisac, re d'Egitto, salì a Gerusalemme e prese i tesori del Tempio del Signore e i tesori del Palazzo Reale. Portò via tutto, persino gli scudi d'oro fatti fare da Salomone. Il re Roboamo li sostituì con scudi di bronzo, affidandone la custodia ai comandanti delle guardie poste all'ingresso del Palazzo Reale. Ogni volta che il re si recava nel Tempio del Signore, le guardie venivano a prenderli e poi li riportavano nella sala delle guardie. Poiché Roboamo si era umiliato, la collera del Signore si distornò da lui e non lo distrusse completamente. Anzi, anche in Giuda vi fu qualche cosa di buono. Il re Roboamo si consolidò in Gerusalemme e continuò a regnare. Quando divenne re, Roboamo aveva 41 anni. Regnò 17 anni in Gerusalemme, città che il Signore aveva scelto fra tutte le tribù di Israele per porre ivi il suo nome. Sua madre si chiamava Naama l'Ammonita. Egli fece il male perché non applicò il suo cuore a ricercare il Signore. Le gesta di Roboamo, le prime e le ultime, non sono forse descritte negli atti del profeta Semaia e del veggente Iddo? Ciò vale anche per la genealogia e le continue guerre tra Roboamo e Geroboamo. Roboamo si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Al suo posto divenne re Abia, suo figlio.